Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Il mattino seguente lo spaventapasseri disse ai suoi amici: «Fatemi complimenti. Finalmente sto andando da Oz per avere il mio cervello. Quando ritornerò sarò uguale agli altri uomini». «Mi sei sempre piaciuto così come sei», disse Dorothy con semplicità. «Mi fa piacere che ti piaccia uno spaventapasseri», rispose, «ma mi stimerai sicuramente di più per gli splendidi pensieri prodotti dal mio nuovo cervello». Poi li salutò tutti allegramente e andò verso la sala del trono dove, una volta arrivato, bussò. «Avanti!» disse Oz. Lo spaventapasseri entrò e trovò l'omino seduto alla finestra a riflettere. «Sono venuto per il mio cervello», disse lo spaventapasseri, un po' a disagio. «Oh, sì, siediti lì, per favore», rispose Oz. «Perdonami se lo faccio, ma devo toglierti la testa per mettere il cervello al posto giusto». «Non c'è problema», disse lo spaventapasseri. «Non mi dispiace affatto che tu mi tolga la testa, basta che quando me la rimetterai sia migliore di prima». Così il mago gli tolse la testa e la svuotò dalla paglia. Poi andò nello stanzino sul retro e prese un misurino di crusca che mischiò con aghi e spilli. Avendoli agitati e amalgamati bene, con la mistura riempì la cima della testa dello spaventapasseri e lo spazio restante con la paglia per tenere saldo il cervello. Quando ebbe riattaccato la testa dello spaventapasseri al corpo, gli disse: «D'ora in avanti sarai un grand'uomo, perché ti ho dato un cervello nuovo di zecca». Spaventapasseri era compiaciuto e fiero per la realizzazione del suo più grande desiderio e, ringraziato calorosamente Oz, tornò dai suoi amici. Dorothy lo guardò, incuriosita. In testa gli era cresciuto un bernoccolo di cervello. «Come ti senti?» domandò lei. «Mi sento molto saggio», rispose serio. «Quando mi sarò abituato al mio cervello, saprò tutto». «Perché ti spuntano aghi e spilli dalla testa?» domandò l'uomo di latta. «Dimostra che è d'intelletto aguzzo», concluse il leone. «Beh, devo andare da Oz a prendere il mio cuore», disse l'uomo di latta. Così andò verso la sala del trono, dove, una volta arrivato, bussò. «Avanti!» disse Oz, e l'uomo di latta entrò e disse: «Sono venuto per il mio cuore». «Certo», rispose l'omino, «ma dovrò farti un buco sul petto per poterti mettere il cuore al posto giusto. Spero di non farti male». «Oh no», rispose l'uomo di latta, «non sentirò nulla». Così Oz prese un paio di forbici da fabbro e fece un buchino quadrato sulla parte sinistra del petto dell'uomo di latta. Poi, dall'interno di una cassettiera, prese un bel cuore di seta, imbottito di segatura. «È bellissimo, vero?» domandò. «Sì, sì», rispose l'uomo di latta, immensamente compiaciuto. «Ma è un buon cuore?» «Ma certamente», rispose il mago. Oz gli sistemò il cuore nel petto e poi rimise a posto il quadratino di latta, saldandolo bene dove era stato tagliato. «Ecco fatto». disse. Adesso hai un cuore di cui puoi andare fiero. Mi dispiace, ma non potevo proprio fare a meno di metterti una toppa sul petto. Non mi importa della toppa, esclamò felice l'uomo di latta. Ti sarò eternamente grato. È stato un piacere, rispose Oz. Poi l'uomo di latta tornò dai suoi amici, che gli augurarono ogni bene. Adesso toccava al leone, che andò verso la sala del trono e bussò. «Avanti!» disse Oz. «Sono venuto per avere il mio coraggio!» annunciò il leone, entrando nella stanza. «Bene!» rispose il l'omino. «Vado a prenderlo!» Dal ripiano più alto di una credenza prese una bottiglietta quadrata di colore verde e ne versò il contenuto in una ciotola verde oro, splendidamente intagliata. Mettendola davanti al leone Fifone, che la fiutò come se non gli piacesse, il mago disse: «Bevi!» «Cos'è?» domandò il leone. «Beh», rispose Oz, «se fosse dentro di te sarebbe coraggio. Sai, naturalmente, che il coraggio è dentro di noi. Quindi questo non si può veramente chiamare coraggio finché non l'hai bevuto. Perciò ti consiglio di farlo il prima possibile». Il leone non indugiò e bevve fino all'ultima goccia. «Come ti senti ora?» domandò Oz. «Pieno di coraggio», rispose il leone, che tornò allegramente dai suoi amici per raccontare loro della sua buona sorte. Oz, rimasto solo, sorrise pensando a come era riuscito a dare allo spaventapasseri, all'uomo di latta e al leone esattamente quello che pensavano di volere. «Come posso fare a meno di essere un impostore?» disse. «Quando tutti mi chiedono di fare cose che è risaputo, non si possono fare». È stato facile accontentare lo spaventapasseri e il leone e l'uomo di latta, perché si immaginavano che potessi fare di tutto. Ma per riportare Dorothy in Kansas non basta l'immaginazione. E non so proprio come fare. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. Storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be we would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, Dorothy non ebbe notizia di Oz per 3 giorni. Furono giorni tristi per la ragazzina, anche se i suoi amici erano felici e contenti. Lo spaventapasseri le disse che aveva pensieri stupendi, ma non diceva cos'erano perché sapeva che nessuno, tranne lui, poteva capirli. Quando l'uomo di latta camminava, sentiva il cuore battergli in petto e disse a Dorothy che aveva scoperto di avere un cuore più tenero e più generoso di quando era un uomo in carne e ossa. Il leone dichiarò di non temere nulla al mondo e avrebbe volentieri affrontato un esercito o una dozzina di feroci calì. Così tutta la compagnia era felice e contenta, ad eccezione di Dorothy, che desiderava tornare in Kansas più che mai. Il 4º giorno, con sua grande gioia, Oz la mandò a chiamare, e quando entrò nella sala del trono le disse molto cordialmente: «Siediti, mia cara, penso di sapere come farti uscire da questo paese». «E ritornare in Kansas?» domandò entusiasta. «Non ne sono certo», disse Oz, «perché non ho idea di dove si trovi, ma la prima cosa da fare è attraversare il deserto, dopodiché dovrebbe essere facile tornare a casa». «Come farò ad attraversare il deserto?» chiese lei. «Ti dirò quello che penso», disse l'omino. «Vedi, io sono arrivato in questo paese con una mongolfiera. Anche tu sei arrivata dal cielo, trasportata da un ciclone. Quindi deduco che il modo migliore per attraversare il deserto sia per via aerea. Dunque, siccome non ho il potere di ricreare un ciclone, avendoci riflettuto, penso di poter costruire una mongolfiera. Come? Domandò Dorothy. Una mongolfiera, disse Oz, è fatta di seta ricoperta di colla per ritenere il gas. Ho molta seta a palazzo e quindi non ci sarebbero problemi per costruirla. Ma in tutto il paese non c'è il gas che serve per riempirla e farla volare. Se non volerà, osservò Dorothy, non ci servirà un bel niente. Anche questo è vero, rispose Oz. Ma c'è un altro modo per farla volare, riempirla di aria calda. L'aria calda non funziona bene come il gas, perché se l'aria si dovesse raffreddare, la mongolfiera cadrebbe nel deserto e noi saremmo perduti. Noi? Esclamò la ragazzina. Verrai con me? Certamente, rispose Oz. Sono stanco di essere un impostore. Se uscissi dal palazzo, il mio popolo capirebbe subito che non sono un mago e si adirerebbe perché l'ho ingannato. Quindi devo rimanere rinchiuso in queste stanze tutto il giorno ed è diventato così noioso. Preferirei tornare con te in Kansas e ricominciare a lavorare in un circo. Sarà un piacere averti con me, disse Dorothy. Grazie, rispose lui. Quindi se mi aiuterai a cucire la seta, possiamo iniziare a costruire la mongolfiera. Così Dorothy prese ago e filo, e con la velocità con cui Oz tagliava le strisce di seta nella forma adatta, la ragazzina le cuciva assieme, bene in ordine. Prima c'era una striscia di seta verde chiaro, poi una di verde scuro e poi una di verde smeraldo. Perché Oz aveva deciso di fare la mongolfiera in tre diverse tonalità di verde. Ci misero 3 giorni per cucire assieme tutte le strisce, ma una volta finito avevano un borsone di seta verde lungo più di 20 piedi. Poi Oz foderò l'interno con uno strato di colla per tenere dentro l'aria, dopodiché annunciò che la mongolfiera era pronta. «Ma abbiamo bisogno di un cestino in cui viaggiare», disse. Così mandò il soldato dai baffi verdi a prendere un cesto per la biancheria e lo attaccò alla mongolfiera con molte corde. Quando fu tutto pronto, Oz fece annunciare che sarebbe andato a trovare un grande fratello mago, il quale abitava tra le nuvole. La notizia si sparse velocemente in città e in molti si presentarono per vedere quel meraviglioso spettacolo. Honey pie. You are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen. Me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. So won't you please come home, come back to me, honey pie. Oz diede ordine di trasportare la mongolfiera davanti al palazzo e la gente la esaminò incuriosita. L'uomo di latta, fatta una gran catasta di ceppi, vi appiccò il fuoco e Oz, tenendovi sospeso sopra il fondo della mongolfiera, fece in modo di gonfiare il borsone di seta con l'aria calda che produceva. Più il pallone si gonfiava, più si alzava, finché anche il cesto si sollevò da terra. Poi Oz entrò nel cesto e a voce alta disse a tutta la gente riunita lì: «Vado a fare una visita. Mentre sarò via, regnerà su di voi lo spaventapasseri. Vi ordino di obbedirgli come obbedite a me». Ormai la corda che teneva la mongolfiera salda a terra era molto tesa, perché l'aria calda l'aveva resa più leggera dell'aria all'esterno e la spingeva a salire tra le nuvole. «Vieni, Dorothy!» gridò il mago. «Sbrigati, o la mongolfiera volerà via!» «Non trovo più Toto!» rispose Dorothy, che non voleva lasciare là il cagnolino. Toto si era mischiato alla folla per abbaiare a un gattino e a Dorothy ci volle un po' per trovarlo. Lo prese in braccio e corse verso il pallone. Era ormai a pochi passi e Oz stava allungando le braccia per aiutarla a salire quando, crack, le corde si strapparono e la mongolfiera decollò senza di lei. «Torna indietro!» urlò Dorothy. «Voglio venire anch'io!» «Non posso tornare indietro, mia cara!» disse Oz dal cesto. «Addio!» «Addio!» urlarono tutti e guardarono il mago nel cesto che si allontanava sempre più da terra. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. Had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad. I do love her. If I find her, I'll be glad. Disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. There. I wonder what went wrong. I've waited far too long. But I think I'll take a walk and look for her. E fu quella l'ultima volta che videro Oz, il meraviglioso mago, anche se, per quanto ne sappiamo noi, potrebbe essere giunto a Omaha e trovarsi ancora lì. ma il popolo lo ricorda con affetto e tra loro ne parlano così. Oz è sempre stato nostro amico. Quando era qui ha costruito per noi la bellissima città Smeralda e adesso non c'è più, ma ci ha lasciato come re lo spaventapasseri saggio. Però, per giorni e giorni, piansero la perdita del meraviglioso mago e non c'era proprio nulla che li potesse confortare. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.